sta per cominciare La forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua. Musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. Trovate a tutti ascoltatrici e ascoltatori ben sintonizzati, 103.1 Radio Città Fujiko. La forma dell'acqua per questo giovedì 4 luglio assumerà dei colori di un'estate speciale, la nostra Summer Special, fra suoni, immagini, monografie, generi ed emozioni che avranno il denominatore comune della bella musica di una bella colonna sonora. Una formazione largamente rimaneggiata con due, per così dire, supplenti estivi, William Piana e Elisa Iacobucci. Un buongiorno a tutti, ai nostri amiche, ascoltatrici, amici e ascoltatori. Oggi iniziamo questa special summer all'insegna dell'estate, sperando che arrivi finalmente. Sì, ne facciamo molta voglia. Come ho definito prima, supplenti. Sai cosa capitava ai supplenti, vero? Beh, diciamo che... venivano prese a cartacce di solito. Beh, speriamo di no, ovviamente. E diamo il via allora a questo primo appuntamento special summer. Porteremo almeno con la fantasia le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori in una forma dell'acqua che ha i colori verde e oro della saudade, della nostalgia, delle emozioni del paese sudamericano per eccellenza in musica. Si parte per il Brasile, quindi da Bahia a Rio, sulle spiagge di Ipanema, un viaggio spazio-temporale che possiamo far partire dalla MPB. Esatto, un genere musicale che raccoglie la ricchezza e lo stile di questo particolare patrimonio culturale e sonoro del Brasile, che coinvolge ovviamente un mix etnico di tradizioni, di ritualità che possono essere anche a volte contrastanti, ma è proprio questo l'unicità e la bellezza di questa musica, proprio il fatto che sia un insieme di etnie e di tradizioni che svolge una funzione proprio all'interno del sangue nel momento che si ascolta questa musica. E che ha la forza dell'ironia, che ha la forza anche, per così dire, del doppio senso, del romanticismo, ma nello stesso tempo del divertimento, della nostalgia. E allora iniziamo il nostro viaggio dal 1963 con questo canto popolare che si chiamava Canto de Osagna, con un titolo e un testo soprattutto molto particolare, interpretato dal grande chitarrista Baden Powell e dal poeta Vinicius Moraes. Allacciate le cinture, si parte! Amor que passou. Então eu só vou. Canto, chiamiamo anche il sole che a quanto pare ci sta facendo la grazia di uscire alle 10:41 minuti. Ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che per accapararsi un posto sul nostro volo direttamente per Bahia, per Rio de Janeiro, per la spiaggia di Ipanema, basta scrivere un semplice sms al 333-180-9494. Un testo molto particolare, questo canto de Ossania, come ho detto prima, tante ironie e tanti doppi sensi, in questo caso fra amore e sofferenza. Il testo dice: non vi è amore se non c'è sofferenza. Beh, diciamo che la saudade nelle canzoni brasiliane è presa in modo unico, infatti non c'è questo rifiuto di questi sentimenti come in Europa, di tristezza, nostalgia, anzi è proprio il Brasile che ci insegna a sfruttare questi sentimenti di malinconia e sfruttarli per qualcosa di migliore. Io ho coniato un termine molto personale che è quello di allegrezza, perché mette insieme nello stesso tempo l'allegria e la tristezza. Tutto ciò appunto può essere unicamente denominato nostalgia, che è il denominatore comune della musica brasiliana. Sai che la musica brasiliana è quella con maggior diffusione e contaminazione dopo la musica angloamericana? Beh sì, sicuramente la musica popolare brasiliana è prima di tutto un mix interno di tante tante etnie, infatti deriva innanzitutto dalla cultura nera presente nel paese, che fu ovviamente introdotta e diffusa dagli schiavi che vennero importati nel paese durante la colonizzazione, e ovviamente queste tribù influirono all'interno del paese stesso attraverso le proprie tradizioni, i propri strumenti, anche la musica proprio popolare che deriva dal termine appunto. Eh sì, che prendeva invece la sua classicità dal Portogallo e quindi dai suoni più bianchi. E mi ricorda molto il soul e il blues, tutto ciò che prende molti spunti dalle tradizioni del country, finché non arrivano gli schiavi da un'altra parte dell'Africa, mettono insieme tutto ciò e creano appunto le sonorità americane e afroamericane che ascoltiamo ai nostri giorni. Vanno a braccetto, secondo me, le sonorità della bossa, della samba, insieme a quelle del soul, del blues e del funky, e infatti la fruizione è molto molto diffusa. Abbiamo ascoltato questo canto interpretato da due grandissimi, abbiamo detto Baden Powell e Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes nello specifico, grandissimo poeta tra l'altro, detto poetigno, o poetigno perché era piccolino, sì sì, proprio così, infatti lui di bassa statura ma di alta elevazione spirituale e non solo ma anche poetica, amante della bella vita e delle belle donne. Beh, del resto il Brasile ne è pieno, come dargli torto. Scriverà canzoni bellissime, la nostra playlist è molto molto piena dei suoi testi, delle sue poesie rifatte in musica. Su Baden Powell, un chitarrista altrettanto bravo, ma è una caratteristica un po' singolare quella del suo nome, che è ripreso da dall'inventore dei Boy Scout, che ah, si chiama prendete. Sì, perché suo papà era estremamente appassionato ai Boy Scout, quindi gli ha dato sfortunatamente questo nome, Baden Powell, ma il suo talento è estremamente grande, e anche lui dal punto di vista dell'uso della chitarra all'interno delle sonorità brasiliane ha scritto pagine importanti. Ma adesso è il momento di parlare di una grande donna che è stato cardine, per così dire, delle sonorità e della scrittura brasiliana. Ha attraversato tutte le rivoluzioni in questi suoni, ha vissuto la dittatura, era soprannominata Pimentinha. Sì, è stata la più grande interprete cardine della musica brasiliana, ha avuto una vita molto difficile proprio perché ha vissuto la parte della dittatura all'interno del Brasile, ma ha saputo con onore portare alto il proprio paese e la propria musica, non solo all'interno proprio del Brasile, ma in tutto il mondo. Eh sì, la grandissima Alice, ha un nome che ti assomiglia fra l'altro, un grande onore. Sì, infatti sono molto onorata di questo. Alice Regina, ma semplicemente Alice per i suoi fan, perché dicevano che è una regina, si sa, che è una regina si sa e soprattutto si sente. Elis Regina interpreterà la musica brasiliana nel vero senso della parola, perché nello stesso tempo vi era la grinta di Pimentinha o Furacao, Uragano come la soprannominavano, a volte purtroppo sotto la dittatura anche i suoi detrattori, che censurarono molti dei suoi testi, fra l'altro. Su Elis Regina c'è tanto tanto da dire, ma c'è anche tanto tanto da ascoltare. La parte più rivoltosa è in questa storia, ritratta in una canzone che è un acquerello praticamente molto energico e molto generoso, che dipinge la vita di un ragazzo che insiste per vendere le arance, Los Meninos de Laranjas. Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio, porque se o cesto não voltar vazio, a mãe já arranja um outro pra laranja. Filho vai ter que apanhar. Compra laranja, menino que vai pra feira. Porque se o cesto não voltar vazio, a mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, laranja, laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo, é só trabalhar e comida é pouco e muita roupa que a cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino, acorda cedo tentando encontrar pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, laranja, laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar. Comida é pouco e muita roupa que a cidade manda pra lavar. De madrugada ele, menino, acorda cedo tentando encontrar pouco pra poder viver até crescer e a vida melhorar. Ainda dou uma de quebra pro senhor. Comprei laranja, doutor, ainda dou uma de quebra pro senhor. Ainda dou uma de quebra pro senhor. L'energia, tutta l'energia della grandissima regina della musica brasiliana, la grande Elis, che ha vissuto degli momenti molto difficili, ma dei momenti anche di grandi onori. La ricordiamo, nel 1979 viene invitata a Montreux, un jazz festival forse il più importante dell'epoca. Elis Regina è convinta di essere importante solamente per il Brasile, non sa di essere importante per tutto il mondo, e quando arriverà a Montreux l'ovazione sarà immancabile. Elis Regina nella prima parte del concerto farà, per così dire, un mezzo flop, ma non perché non ha talento, perché non si aspettava tutto ciò. Inizierà a piangere, il trucco gli si scioglie davanti agli occhi e praticamente farà il concerto per buona parte in maniera così ciecata, poveretta. Sì, era molto emotiva come persona, e ovviamente a posteriori, riguardando, risentendo alcune sue live in concerto, si capisce che in qualche modo voleva anche strafare, proprio perché voleva soddisfare il proprio pubblico e ci teneva talmente tanto che al solo pensiero di poterli non ricoprire di gioia attraverso la sua musica le creava un patema emotivo incredibile. Bellissima donna, molto particolare, un viso splendido, dolce allo stesso tempo grintoso, con una caratteristica, i capelli corti che gli ornavano il viso, mori corvini che davano allo stesso tempo sinonimo di grinta e di dolcezza. La grandissima Elis Regina, come ho detto in precedenza, farà tutte le rivoluzioni all'interno della samba, dell'MPB, della bossa nova e quant'altro. Scomparirà giovanissima, ma siccome noi ne parleremo anche più tardi di Elis Regina, perché è molto importante, adesso preferiamo parlarvi del Brasile in maniera, per così dire, anomala sportiva. Sì, anzitutto bisogna dire che il tema è caldo, perché io e Willy insieme, esatto, diremo perle calcistiche a seguire a ruota. Però voglio dire, il Brasile, non puoi parlare del Brasile senza accennare il calcio, assolutamente. Infatti è pentacampionato campionato, ha vinto 5 mondiali con la Seleção. In Italia ne avete solo 4, quindi solo per questo, insomma, tanto di cappello per il Brasile, per Pelé, per Ronaldo e per tutti i grandi campioni che hanno tolto anche dalla strada e dalle favela persone che insomma erano in difficoltà e hanno trovato poi il successo in tutto il mondo. Eh sì, anche con lo sport, nel calcio, interpretato negli anni passati in maniera più sana, per così dire, in maniera più alternativa, era vissuto come una rivolta, era vissuto come un'espressione di talento da parte dei brasiliani che non solo dicevano potevano e dovevano, costretti dal mondo tra virgolette occidentale, vivere nella povertà, ma potevano reagire non con la reazione o con la ribellione, ma con lo spettacolo, con l'ironia. Il gioco del calcio in Brasile è sempre stato più inteso come una manifestazione di aggregazione e di spettacolarità, e in questa spettacolarità si ritrovavano tutti gli appassionati a festeggiare al Maracanã con queste partite splendide, e i loro campioni, più che la forza fisica, usavano il talento sbeffeggiando gli avversari. Immancabili i ragazzetti e anche le ragazzine si identificavano in questi campioni e li elevavano a idoli, come appunto rappresentanti di un rilancio di tutta la cultura brasiliana. Perché tutto ciò è legato alla musica? Beh, va a braccetto con George Ben. Esatto, con Ponta de Lança Africano, Umba Baraumba, che è una elevazione proprio, è una erodedica Pelé, tra l'altro, sì. E ovviamente non potevano non parlare questi grandissimi artisti di uno sport che va al di là di quello che è e entra all'interno della cultura. Assolutamente importante, George Ben, di cui parleremo più tardi, non solo Umba Baraumba e non solo calcio, ma anche tantissimi brani pop internazionali. In questo caso ci ascoltiamo la Ponta de Lança Africano, un grandissimo nonno dell'Afrofunk. Essa é a história de E torniamo sui 103.1 e iniziano ad arrivare i primi messaggi dei nostri passeggeri. E Gio ci scrive: la nostalgia è un tocco di gioia in una mano non tutta sorridente. Senza questa mano non potremo accarezzare la gioia quando diventa tristezza. È un poetigno. Non poteva dire cosa più giusta, più azzeccata. Ringraziamo quindi Gio, l'ascoltatore che ha scritto al 333-1809-494, che prende posto sul nostro aeroplano di fantasia che ci porta tra le spiagge di Bahia e la fantastica Rio de Janeiro. Hai fatto caso che il Cristo Redentore, che è sul pan di zucchero, ha le braccia aperte come per un abbraccio e un sorriso, e non sta soffrendo? No, infatti questo racchiude il senso anche del messaggio che ci ha mandato il nostro amico. Sì. E parliamo di George Ben, prima che mi metta a piangere dall'emozione, ovviamente, perché anch'io sono molto facile di picaglia tenera alla saudage. Quindi stavamo parlando di George Ben, che ha fatto tantissimi brani pop, uno su tutti. Beh, uno su tutti, Maschenada, che è stato reinterpretato anche dalla mia amata Ella Fitzgerald, quindi solo questo. Beh, faremo una monografia se non ci cacciano, così sei contento. Grazie, però insomma Maschenada è stato veramente la hit mondiale, prima in classifica insieme anche ai Beatles, quindi è stato proprio un pezzo del cuore del Brasile esportato in tutto il mondo. E tra l'altro John Baer ha dovuto aggiungere anche un genre in più all'interno del suo nome, perché il chitarrista George Benson, ovviamente a livello legale, ha detto: aggiustati il nome perché qua sono cavolacci amari. Beh, George Benson, che noi salutiamo e ringraziamo, perché tra l'altro è un chitarrista meraviglioso, quindi automaticamente l'onore anche per George Ben è stato grande. Musica completamente diversa, ma che però a tratti potrebbe essere sovrapponibile. Grande pop per George Ben, ovviamente con le tinte verde e oro del Brasile. Si parlava di Maschenada, che tradotto in ispanico potrebbe essere facilmente intuibile con più che niente, sempre più che niente, mentre invece in portoghese vuole dire è giusto così. È giusto, cioè, così. Sì, vuol dire un'incitazione ad andare avanti e a rassicurarsi, che del resto. Make niente, insomma, così va a Bologna. È giusto così, make niente, per dirla proprio in felsineo, con la saudade felsinea. In questo caso noi Maschenada, che è stato reinterpretato più o meno quanto è stata reinterpretata Sunny nella musica afroamericana, l'andiamo a ascoltare fatta dai Tamba Trio, un quartetto vocale estremamente interessante che sostituiva l'uso della voce agli strumenti tradizionali. Tamba Trio de Maschenada. trio che poi diventeranno anche Tamba 4 con l'aggiunta di un percussionista. Saranno molto importanti non solo per questa interpretazione ma per tanti altri classici, fra cui Corcovado, Consolação, la stessa Garota di Ipanema, di cui lasceremo l'ampio spazio nella seconda parte della trasmissione, e la famosissima Batucada di un altro grandissimo artista. Maschenada è interpretata anche da Sergio Mendes, al quale viene interpretata la scrittura, ma non è così, è semplicemente quello che ne ha fatto la versione probabilmente di maggior successo. Esatto, infatti da parte di questa canzone si collega molto bene Gilberto Gil. Brava, so che ti sei preparata molto su quest'autore che ti piace in maniera particolare. Sì, è un musicista, anche ex ministro della cultura, tropicalista che ha inventato appunto proprio il tropicalismo insieme a Caetano Veloso, che è una specie di 68 italiano, diciamo, però in Brasile è stato troncato per bene dalla dittatura. E tra l'altro l'11 luglio al cinema uscirà proprio un film sulla vita di Gilberto Gil, che consiglio a tutti di vedere, perché oltre alla sua vita ovviamente sarà accompagnato dalla sua grande musica e ne vale davvero la pena. Assolutamente importante come autore e anche per la cultura in generale. Allora, prima di andare in pubblicità ci ascoltiamo Queremos Guerra, e a voi l'invito di rimanere a bordo di questo fantasioso aeroplano sulle spiagge del Brasile. Queremos Guerra, Gilberto Gil, a fra pochissimo. Só o amanhã. E se chover também, eu não vou ficar em casa, pois eu não estou aqui para pegar uma gripe danada. E no fim da semana eu não poderei ver a minha namorada. E no fim da semana eu não poderei ver a minha namorada. Se for pra brigar com a minha sogra, que ainda não sei porquê não gosta de mim. Eu sou um rapaz considerado simpático, chego a ser até adorado pela minha querida mãe, que desde pequenininho me ensinou que é carinho, como é feia a guerra, como é lindo o amor. Que desde pequenininho me ensinou o que é carinho, como é feia a guerra, como é lindo o amor. Guerra, é um só momento, depois da guerra vem o esquecimento. Guerra, é um só momento, depois da guerra vem o esquecimento. Se cerchi un'enoteca che offra vini di qualità ad un prezzo equo, un luogo dove organizzare feste di laurea con wifi gratuito e aperitivi a buffet, se vuoi vivere l'arte a Bologna con rassegne, mostre fotografiche e proiezioni, e soprattutto se non hai mai visto un luogo del genere, segnati queste due parole: Alto Tasso. L'enoteca Alto Tasso è in piazza San Francesco 6/D. Per info www.altotasso.com. Dal 26 giugno al 4 luglio, Sauvage, il selvaggio nell'arte, nella musica e nella storia. Una rassegna inserita in Be Bologna Estate. Prendo guardo il giornale e leggo che quotidiani, periodici, riviste specializzate, CD e DVD e tutto il necessario per il tuo tempo libero. All'Edicola Grandi, in via Massarenti 410. Ma soprattutto, forza Bologna! All'Edicola Grandi puoi trovare tutta la gadgetteria per tifare il rossoblù. La sigaretta elettronica. Con quel che costano le sigarette, ad essere passivo non è il fumo, ma il mio conto in banca. E allora passa a Must, la sigaretta elettronica. Risparmi, ne guadagna la salute e non devi fare i conti con i divieti. E dove la trovo? Must è a Bologna, in via Stalingrado 26/B. Puoi trovare prodotti personalizzabili e scegliere tra una vasta gamma di aromi. Per info 389 1089 158, o cerca Must Sigarette Elettroniche Bologna su Facebook. Continuiamo a resistere. Dal 28 giugno all'8 luglio al parco di Viale Togliatti a Bologna torna la festa di Liberazione. Ogni sera stand gastronomici, culturali, dibattiti, balera e concerti. Giovedì 4 luglio ore 21, la sinistra che immaginiamo, dibattito con Paolo Ferrero. Dal 3 al 6 luglio tornano i mondiali antirazzisti a Bosco Albergati, Castelfranco Emilia. 4 giorni di sport, lotta al razzismo, musica e buona tavola. Ristoranti e bar aperti fino a tarda notte. Campeggio e spettacoli gratuiti. Tutte le sere dalle 22, concerti e a seguire DJ set. Giovedì 4, Los Fastidios. Venerdì 5, 99 posse live set. Sabato 6, il grande ritorno della Paolino Paperino Band. Programma completo e info su mondialiantirazzisti.org. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio ai mondiali antirazzisti a Bosco Albergati, Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Iniziativa promossa da WISP Nazionale. Dal 13 giugno al 27 luglio il rock respira col Botanic 4.0. Ritorna tutti i giorni l'estate in musica ai giardini di Via Filippo Re, con concerti, cinema, buon cibo e tanto bolleggio. E dopo i concerti si balla con i DJ dell'Estragon. Scopri il programma su www.botanic.it. Relax, relax e relax. Da oggi allo stabilimento termale di Castel San Pietro, via Terme 1113, apre il centro Ba'an Sabai. Ba'an Sabai ti regalerà il massimo relax e risolverà problematiche di cervicale, mal di schiena, riequilibrio energetico e inestetismi della pelle. Ba'an Sabai è la vitalità del massaggio thailandese unito alla salute delle fonti termali. Offerta coppia, sauna e massaggio a partire da 29 euro. Prenota allo 051 69 42 107. Strummer Live Festival all'Arena Parco Nord di Bologna, l'appuntamento centrale dell'estate nella nostra città. 3 giorni di buona musica con Goran Brekovic, Manu Chao, Albo Rosi, Tonino Carotone, Modena City Rembes, Africa Unite e tanti tanti altri. E fino alle 3 si balla con i DJ dell'Estragon e di Radio Città Fujiko. Info e prenotazioni su www.estragon.it/strummerfest. carichi della dolcezza di queste sonorità delle note di Coleman Hawkins, scritta però da Tom Jobim. E per chi non l'avesse capito, siete all'ascolto di uno speciale di Special Summer sul Brasile, insieme a William Piana e Elisa Iacobucci, che se la sta bellamente ridendo in barba alle mie dislessia. Ma noi torniamo in diretta e abbiamo appena ascoltato, come dicevo in precedenza, Desafinado, una canzone molto particolare che può introdurre perfettamente il tema della bossa nova. La bossa nova, che è assolutamente il susseguirsi dell'MPB, perché appunto è un genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50, con il fondersi della parte popolare, quindi della parte più tradizionale, e quella un po' più intellettuale, diciamo, proprio sì. La linea di confine in Brasile, soprattutto tra la musica popolare e quella un po' più d'autore, è veramente sottile, perché continua a integrarsi e a nutrirsi a vicenda, ed è veramente una prelibatessa. Sì, per me è il soul brasiliano, anche se il nome è fuorviante, perché bossa nova tradotto vuol dire new wave, onda nuova, e pensa quanto era diversa invece la new wave negli anni 80, era molto più ruvida, molto più sintetica e fredda, invece queste sonorità sono estremamente calde e accattivanti. Desafinado di Coleman Hawkins, un autore estremamente importante, importantissimo. A lui si deve la paternità dell'uso del sax tenore all'interno del jazz in generale. È proprio il padre del sax. Sì, il padre del sax, paragonabile a dei Dexter Gordon, a dei Sonny Rollins, a dei John Coltrane e quant'altro, ha dato uno sguardo a queste sonorità e l'ha fatto decisamente bene. Ed era anche collega di Louis Armstrong, bisogna dirlo, sì, quindi sì, insomma. Beh, te Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, guai a chi li tocca. Un po' come andare a toccare a me Marvin Gaye e Sam Cooke. Capisco benissimo come darti torto del resto. Ci saranno speciali a tema anche sulla musica afroamericana. E per i vostri sms 333-1809-494 per prendere posto, ovviamente, per un viaggio in Brasile sulle spiagge dorate del Sol di Ipanema. Siamo arrivati a Coleman Hawkins, personaggio molto sensibile anche dal punto di vista sentimentale. Andrà in una crisi tremenda quando verrà lasciato dalla sua donna e scomparirà in età prematura a causa di una brutta broncopolmonite. Cadrà in uso di antidepressivi e di alcol in seguito alla delusione d'amore che citavo in precedenza. Ciò non toglie che ha espresso delle grandi note e scritto delle pagine importantissime anche in ambito di musica brasiliana, di bossa nova in questo caso. Momento d'oro per il Brasile, momento prima della dittatura, momento dove la società intellettuale si univa a quella popolare e dava vita a questa scrittura estremamente sentimentale e anche di facile ascolto. Elis Regina farà parte anche di questo movimento, le ha fatte tutte. Esatto, insieme a Antonio Carlos Jobim, che è ufficialmente, è il papà, sì. È il Sam Cooke della bossa nova, si può dire. Carlos Jobim, il nome particolare, è detto Tom, in quanto la sorellina faceva fatica a pronunciare per esteso il suo nome. Pensa che il pianoforte sia l'uso di donnicciuole, sia musica così debole, e poi lo scopre e si riscopre un grandissimo musicista. E insieme a Vinicius de Moraes scriverà delle canzoni bellissime. Elis Regina lo accompagna in questo caso con la bellissima Agua de Marcos, che andiamo ad ascoltare. È pau, è pedra, è o fim do caminho, è o resto di toco, è un pouco sozinho, è un caco di vidro, è a vida, è o sol, è a noite, è a morte. Seu anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, canga, candeia, é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da colheira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um breu, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma cor, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz, da manhã. São as águas de março fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração. As águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, pá, pá, de baziza, zá, zá, ziza, azá, na minha, anda, dede, anda, dede. E rientriamo in studio dopo aver ascoltato questa fantastica canzone cantata da Elis Regina e Antonio Jobim. I testi delle canzoni brasiliane sono fantastiche perché mischiano insieme la felicità, la tristezza, l'amore, la bellezza, e questa appunto è una canzone che va proprio a raccontare le piccole cose belle della vita di cui non si può proprio fare a meno. Assolutamente, detto o maestro. O maestro, e Elis Regina ovviamente è stata d'aiuto anche per o maestro, perché chiunque cantasse con lei poi riempiva non solo gli stadi ma anche il cuore. Esatto. Ovviamente Elis Regina scomparirà purtroppo giovanissima, 38 anni solamente, e ai suoi funerali succederà una cosa molto toccante, perché nella deposizione della bara il suo corpo verrà avvolto in una bandiera brasiliana, e già questo è un grande onore, ma il famoso slogan della città carioca verrà contaminato e verrà stravolto. Non sarà più Ordem en Progresso ma sarà semplicemente Elis Regina. E questo è grande onore. Esatto, infatti poi il concerto in memoria di Elis, che fu tenuto a San Paolo pochi giorni dopo la sua morte, venne cantata in piazza da milioni di persone, O Bebado Equilibrista, che era appunto la canzone che era stata scritta nel periodo del regime brasiliano. Sì, censurata. Censurata, infatti diventò proprio, diciamo, quasi l'inno brasiliano. Il simbolo della riscossa. Una dittatura, pur sempre una dittatura, che faceva parte dell'operazione Condor ai danni dei paesi sudamericani. Cile, Bolivia e tanti altri hanno avuto tantissime vittime da parte anche di un segreto della CIA che si è voltata dall'altra parte, anzi ha contribuito a questa mattanza ai danni di un movimento marxista che stava prendendo fortemente piede all'interno della società sudamericana intellettuale e non solo. Per una scomparsa di una grande regina è in arrivo una principessa. Beh, Astrud Gilberto insieme a Lau Gilberto e Stan Getz rappresentano proprio la canzone, appunto, The Girl of Ipanema. E non si può non citare anche questa canzone, perché è fondamentale, perché non parla solo della bellezza riguardo a questa ragazza famosa di Ipanema, ma proprio nella bellezza in sé. Sì. Che può esserci anche la bellezza, ma Non da sola, insomma, perché che illumina tutto ciò che vede, che illumina tutto ciò che percorre. Il testo è molto struggente, è questo innamorato che guarda una ragazza passeggiare e la vede bellissima e dice: perché non rivolge mai lo sguardo verso di me? E intanto sta illuminando con la sua bellezza tutte le cose che percorre, tutte le cose su cui è avvolto il suo cammino. Perché è molto importante? Perché fa parte di un disco prodotto da Creed Taylor, Getz Gilberto, Stan Getz, João Gilberto featuring Antonio Carlos Carlos Jobim con la voce di Astro Gilberto, è tuttora l'LP più venduto della musica brasiliana. La contaminazione del sax di Stan Getz introduce a un discorso di inizio, di messa insieme tra la musica brasiliana, nello specifico la bossa nova, e il cool jazz, l'aspetto intellettuale più accademico, ma non per questo di cattivo gusto, anzi tutt'altro, del jazz nordamericano. Non ci resta che ascoltare La Garota dei Ipanema. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Questa era The Girl from Ipanema di Stan Getz, Gio Gilberto e Astro Gilberto, una voce dolcissima insieme al suo dolcissimo viso, rimarranno per sempre legati al mito della ragazza di Ipanema, e per i più curiosi potrebbero anche andare a guardare Eloisa Pineno, che è appunto la famosissima ragazza di Ipanema a cui si sono ispirati all'interno del brano. Vinicius de Moraes, amante delle belle donne, viene facilmente, per così dire, amichevolmente accusato di fare un'elevazione della bellezza estetica femminile unicamente. Non è così il brano va oltre. Ricordate, parlavamo all'inizio dei doppi sensi piacevoli e dell'ironia con il quale i brasiliani hanno più piacere di combattere i poteri forti. Beh, l'ironia e il doppio senso in questo brano è questo, che la bellezza prima o poi deve decadere, anche se è molto importante e se illumina, e in questo caso la ragazza di Ipanema è il Brasile stesso che è bellissimo e che molte volte purtroppo viene preso di mira, come ho detto in precedenza, dai poteri forti, lo vediamo anche adesso fra l'altro, e ridotto purtroppo in povertà. Ciò non toglie che il territorio, il mare, le spiagge, le bellezze naturali e non solo sono meravigliose. Si narra che il significato reale di The Girl from Ipanema sia un'elevazione oltre che alla bellezza vera e propria del mondo femminile, anche la bellezza del Brasile. E la bellezza comunque in generale, perché non è rappresentata solo dalla ragazza, ma proprio è ovunque in realtà, perché la bellezza non è di nessuno, perché è proprio di tutti. Eh certo, e tutto ciò deve essere decantato, e lo fa benissimo il grande Vinicius de Moraes insieme a Tom Jobim. Astro Gilberto farà un passaggio molto importante all'interno della musica e della bossa nova, perché questa principessa, se Alice era la regina, sicuramente Astrud potrebbe essere definita principessa, ci accompagnerà anche in un mondo di easy listening all'interno di queste sonorità, grazie a un nuovo autore di cui parleremo nella prossima parte di questo Special Summer sui 103.1, che è l'autore che mi ha fatto conoscere la musica brasiliana, il grande Marcos Valle. In questo caso andiamo a ascoltare, prima della pubblicità, a proposito di Special Summer, una Summer Samba, So Nice di Astro Gilberto. Be very nice, someone to love me right. That would be very nice, someone to understand each little dream in me, someone to take my hand, to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I find someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it would be nice. Me right or wrong, someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. So nice, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it could be nice. Knows it's windy. flesh at the sound of flies, and Windy has wings to fly above those clouds. That flash at the sound of flies, and Windy has wings to fly above the clouds, above the clouds. Speaking out from under a stairway, calling a name that's lighter than air. Who's bending down to give me a rainbow? Everyone knows it's Windy. E questa è stata una grandissima cantante, la grandissima Astrud, che in realtà venne voluta dalla moglie di Jobim quando dovettero scegliere la voce da inserire all'interno del loro gruppo. E infatti è proprio la sua voce che rimarrà sempre legato al mito dell'easy listening, sì. Che è appunto insieme alla bossa nova quella parte importante è anche di un format radiofonico dei tempi degli anni 50 e 60 americani, e anche a Radio Città Fujiko non poteva di certo mancare. Questo format ormai diventerà mondiale, intercontinentale, almeno con la fantasia e con l'idea ci siamo sulle spiagge del Brasile. Ovviamente il tempo gioca a nostro favore, speriamo che duri anche per il weekend, per la mia baia personale che è Porto Corsini. Non so se a Baia ci sono le zanzare, però a Porto Corsini ci accontentiamo dell'Adriatico. Ci accontentiamo dell'Adriatico in questo caso, perché no, averne per un weekend splendido e portarsi dietro i dischi di Astrud Gilberto per una colonna sonora in macchina, perché è proprio di easy listening in questo caso la regina, anzi per meglio dire la principessa di queste sonorità brasiliana da Bahia, è la grandissima Astrud Gilberto. Sì, non dire regina che poi ieri si offende, perché lei è pimentinha, esatto, è peperina, è un attimo che mi lanci una maledizione. Ogni tanto sono distratto, ma io sono tifoso uguale di tutte e due, però ovviamente la grandissima Astrud in quanto a esaltazione della bellezza e del facile ascolto, Alice Regina invece un po' di più per quanto riguarda l'impegno, perché no, anche sociale. Il discorso legato al progetto del disco Get Gilberto è molto importante. Nasce casualmente per un viaggio di Bobby Bird nel Brasile. Il chitarrista tornerà indietro con una sporta, una valigia di dischi infinita, andrà dal produttore Creed Taylor e gli dice: guarda che cosa ascoltano là in Brasile, questa musica splendida, possiamo fare qualcosa per riunire la nostra musica alla loro? Detto fatto, ne nascerà il disco di cui abbiamo parlato in precedenza, che sarà tuttora il più venduto per quanto riguarda le sonorità brasiliane, nello specifico della bossa nova. Il produttore Creed Taylor non solo è stato grandissimo per tutto ciò che è bossa nova, ma anche per quello che è il cool jazz. Il cool jazz di cui è stato un grande interprete Stan Getz, che viene per così dire importato dall'Ucraina da dei genitori che si sono trasferiti, e lui inizierà da giovanissimo talento, già a 16 anni, per le band più importanti, musicisti che lo volevano a tutti i costi per il suo calore nel suonare questo strumento. Suo amico Bobby Bird gli farà presente tutto ciò e lui dice: è un momento un po' difficile per me, perché c'è il grandissimo Jerry Mulligan che mi sta rubando la scena. Ai ai ai, in questo caso qual è il rimedio? Cercare all'interno del cool jazz nuove sonorità. Stan Getz messo anche in disparte, in quanto l'hard bop e il free jazz stavano fortemente prendendo piede, si trasferisce e contamina perfettamente il cool jazz con la bossa. La bossa nova diventerà importante quindi anche per il jazz nordamericano e viceversa, ed esce questo disco che si chiama Jazz Samba, fatto da Stan Getz e lo stesso Charlie Bird, dal quale andiamo a ascoltare Samba These Days. Beh, alla faccia di chi dice che il cool jazz è molto freddo a questo punto, direi che è estremamente caldo, estremamente importante e sicuramente intellettuale, per così dire. Anche se viene definito la musica di un jazz per bianchi, tantissimi autori di colore ne faranno parte e sarà la parte molto importante all'interno del movimento. Ricordo Thelonious Monk, fra tutti il grandissimo Charlie Mingus. Ma tornando ai visi pallidi, Stan Getz ha fatto la parte del leone per quanto riguarda le contaminazioni con la parte sud dell'America, col Brasile, di cui stiamo parlando qui sui 103.1. William Piana e Elisa Iacobucci, per comunicare con noi al 333 180 94 94. Suoni, emozioni, visioni e immagini di un subcontinente infinitamente bello e romantico. Allora, siamo passati dal cool jazz, arriviamo all'easy listening, di cui abbiamo già citato con brevi accenni in precedenza. Easy listening e cocktail music sono sonorità altrettanto importanti, perché porteranno la musica di facile ascolto a grande raffinatezza. Esatto, l'easy listening è stato anche un importantissimo format radiofonico a partire dagli anni 50 e 60 in America. Che ce l'hai con la radio? Beh, insomma, ovviamente essendo in radio bisogna parlare dei nostri colleghi. Esatto, perché comunque la storia è importante, la storia. I nostri colleghi meno bravi. Esatto, ovviamente comprende appunto vari arrangiamenti musicali, dalla musica pop a quella anche un po' più leggera, appunto contenuta in locali, in hotel, d'accompagnamento e intrattenimento, anche in posti appunto abbastanza sensuali, diciamo. Certo. E appunto la storia parte anche dal piano bar, perché all'interno di queste ambientazioni l'easy listening poteva accompagnare in modo leggero appunto un ottimo cocktail. E quanto mai è importante saper bere bene quanto ascoltare bene. Allora parliamo di un artista che ha saputo mettere insieme questa sonorità con uno strumento che evocava i paesi esotici in maniera molto molto suadente, non solo, ma anche molto forte. Se si parla di easy listening e di cocktail music all'interno della musica brasiliana, il magnifico, il suo soprannome era The Wonder, perché si chiamava in realtà Walter Wanderley, musicista di organo Hammond B3. E qui troviamo uno strumento nuovo, uno strumento che è stato la forza del rhythm blues e del soul, ma che diventa la forza improvvisamente anche della bossa nova. Walter Wanderley accompagna queste note di easy listening di facile ascolto, ma altrettanto raffinato, e spesso accompagna la stessa Astro Gilberto come cantante, una accoppiata veramente al fulmicotone. In questo caso, dal suo album The Boss of the Bossa Nova di Walter Wanderley, andiamo ad ascoltare La ragazza moderna, La garota moderna. olhos como eu nunca vi. Camisa esporte sobre a calça liz, um ar esnobe de quem nada quer. Lá vai ela e pensa que é mulher. Lá vai ela e pensa que é mulher. Cigarrinho aceso em sua mão, toca moderninho violão e diz que o amor é coisa que não quer. Lá vai ela e pensa que é mulher. Ela e pensa que é mulher. Lá vai ela e pensa que é mulher. Lá vai ela e pensa. I suoni della bossa nova vengono avvolti dal calore dell'organo Hammond di Walter Wanderley, il boss of la bossa nova, o anche The Wonder, come preferivano chiamarli i suoi ammiratori. Walter Wanderley e la cocktail music. La cocktail music che nasce non solamente per il facile ascolto, ma per una cultura popolare hawaiana molto importante. Militari spostati durante la guerra di Corea nelle isole del Pacifico scoprono le abitudini quanto mai strane, ma accattivanti e interessanti, di tutti gli abitanti cosiddetti indigeni, ma a quanto pare per certe cose molto più civilizzati di noi. Perché tutto ciò? Perché si ritrovano sotto il tiki. Sai cos'era il tiki? Non lo sai cos'era il tiki? Ah, il tiki. Sì, sì, sì, ci ho anche lavorato. Ah sì, no, non è il tiki bardo. No, sto scherzando. Probabilmente si chiama così perché è ispirato alla divinità del Pacifico che benediceva gli incontri e il tempo libero. Un dio antropomorfo dalle forme, per così dire, sorridenti e sogghignanti, che dopo una giornata di lavoro benediceva quello che è l'aperitivo e il tempo libero. È proprio da lì che si prende spunto il divertimento, lo svago, il solleticarsi. Sì. Sì, il sedursi a vicenda, appunto, è stato insegnato forse da questi abitanti che noi definiamo a volte e sbagliando incivili, ma a quanto pare, amando così il tempo libero che a noi manca, molto molto più civili di noi. Walter Wanderley non finisce qui, perché è un'ottima introduzione per un musicista che nel cuor mi sta, perché è stato quello che mi ha fatto scoprire la musica brasiliana, e scopriremo anche le sonorità della batucada, un altro genere all'interno di tutte le contaminazioni brasiliane, quello del carnevale. Elisa, non abbiamo parlato del carnevale? Come si fa? Abbiamo parlato del calcio io e te, non abbiamo parlato del carnevale. Che siamo molto più siamo un pochino più vicini alla maschera che al pallone. Sì, perché non è, noi magari lo viviamo un po' più come festività che si è distaccata dalla nostra cultura, invece lì il carnevale è proprio parte fondante della musica e della loro cultura. Assolutamente, è il momento dell'aggregazione, ma soprattutto il momento sfrenato accompagnato da samba. Sì, e della batucada. La batucada che è una reiterazione ritmica, è una cosa tribale, quindi che viene proprio dall'Angola, che viene dagli schiavi che sono stati importati, per così dire, permettetemi questo termine che non è assolutamente giustificabile, anzi è aberrante, però dall'Angola vengono portati gli schiavi sulle coste brasiliane e riportano da casa le loro sonorità fatte di percussioni. Walter Wanderley e insieme a Marcos Valle, in questo caso, di cui è la scrittura di questa batucada surju, la raffinano, la rendono un pochino più occidentale. La batucada surju difficilmente ci fa restare fermi. A voi Walter Wanderley, la batucada. Elisa, abbiamo fatto uscire il sole. Dopo quasi un'ora e mezza di musica brasiliana, il nostro compito è assolto. Ok, andiamo a mangiare. Dai, andiamo a mangiare. Grazie dell'ascolto, le ascoltatrici e agli ascoltatori. Tempo dell'informazione, via, noi andiamo a mangiare. Io anche la mia brioscina, perché ogni tanto, sai, io è una brioscina al curaçao. Al curaçao, sì. No, in realtà vi voglio bene, non voglio mangiarvi i microfoni, quindi ho detto me la porto da casa, che no, è meglio. No, i microfoni no, assolutamente. È meglio ascoltare la musica di Walter Wonderly, fare passare un'altra mezz'oretta insieme alla Forma dell'Acqua Special Summer con Elisa Iacobucci e William Piana per un viaggio immaginario, ma che sta diventando quanto mai reale col sole che accompagnerà il weekend i nostri ascoltatrici e i nostri ascoltatori. 11:52 minuti, siamo vicini all'altro stacco pubblicitario. Cocktail music, ma anche contaminazioni fra il bebop e la musica afroamericana, in questo caso proprio di origine più afro, grazie all'inventore del bebop. Beh, l'inventore insieme a tanti altri che hanno scritto insieme a lui le canzoni, stiamo parlando di John Gillespie. Perfetto. Sì, con Manteca, che è uno dei brani fondamentali che rappresenta proprio il jazz afro-cubano. Sì. E infatti quando pensiamo a lui iniziamo a pensare a delle gote gonfissime, un collo da pugile. Tipo Ranocchio. Esatto. E questa è la classica immagine di un grandissimo artista, nonché anche showman e comico. Infatti grazie proprio a questa sua vena ironica è riuscito a condurre la sua vita, nonostante tutte le sue difficoltà, nel migliore dei modi. E tra l'altro una chicca che ti regalo. Grazie. No, in realtà che vi regalo, perché a Willy non si può mai sorprendere. Andiamo pure avanti. Andiamo pure avanti. È che durante una sua esibizione il duetto comico che lo stava precedendo gli ruppe la tromba. La tromba andò verso l'alto e siccome a lui piaceva così tanto però il suono che metteva, si fece fare la tromba apposta con appunto la campana sparata verso l'alto, perché uno leggeva anche meglio gli spartiti, visto che queste guance coprivano tutto, non vedeva niente, poverino. E quindi creava anche questo suono molto più squillante. Sì, Dizzy Gillespie, dicevo, l'inventore. Sì, forse sono parole grosse, però nella storia del jazz è stato definito tale in quanto lui era lo scrittore e Charlie Parker l'esecutore. Una coppia incredibile, la famosissima e bellissima Sal Peanuts sarà uno dei grandi classici di questo genere, ma non solo, anche musica afro-brasiliana, con questa bellissima Manteca che vi lascia prima della pubblicità. A tra poco e buon ascolto con La Forma dell'Acqua Super Special. Manteca, Dizzy Gillespie. I'm gonna get you. tails across the coast. The water's crystal in your hand. The air is simple and cool. The tempo is easy as you please. Tangerine, adrift upon a sea of love. A world where nothing comes between the salty days and salty nights. Where every slice of life and love has just the perfect combination. A pinch of sadness, a touch of cinnamon and love. Alle 12.05 torniamo in diretta per un'estate speciale, uno special summer all'insegna dei colori verde e oro della musica brasiliana, che unisce anche l'easy listening, come abbiamo detto in precedenza. E se si parla di questo genere non si può dimenticare il grandissimo Sergio Mendes. Il grandissimo Sergio Mendes, con le sue tonalità che ricordano appunto la samba e quindi, come dicevamo prima, il carnevale, il grandissimo carnevale di Rio de Janeiro, che fondamentalmente parte in realtà da una tradizione parigina, dalle famose feste mascherate degli anni 30, e ovviamente diventa la grande festa brasiliana, e non si può festeggiare due giorni, anzi tre, come appunto il carnevale. Non c'è due senza non tre. Due senza tre. Ma mi sa che diventa anche quattro. Esatto, che appunto vedi questi grandissimi carri, questa grandissima festa colorata, piena di musica, e assolutamente da ricordare anche tutto ciò che è legato alla musicalità. E come diceva anche il grande Gilberto Gil, la musica brasiliana si può fare in tanti modi e io li preferisco tutti. Come dargli torto, del resto le vostre orecchie sono state allietate, o almeno speriamo, da una selezione che adesso è arrivata ai giorni nostri, con un ponte molto molto importante. Come dicevo, l'autore che nel cuor mi sta è Marcos Valle. Marcos Valle è tuttora in attività, approda a un'etichetta tuttora molto produttiva che è la Far Out Record. Ho una splendida maglietta, una t-shirt che ricorda il decennale di questa bellissima label indipendente di Joe Davis, dove è molto presente anche l'impegno ecologico. La t-shirt che indosso è per beneficenza, cioè per tenere curato il più possibile l'oceano, per tenere più curato possibile contro l'inquinamento e contro la sporcizia le spiagge e non solo le acque degli oceani che bagnano le coste brasiliane. Quindi motivi di importanza sociale e ecologica insieme alla musica. Torniamo a Marcos Valle. Beh, che dire di Marcos Valle? Già dal liceo poi era un grandissimo artista. Sì, ha debuttato proprio da giovanissimo. Polistrumentista, sì. Compositore, arrangiatore, cantante. Che dire di più? Il tono personale che aggiungo alla trasmissione, cioè è stato quello che mi ha fatto conoscere la musica brasiliana. Per chi è stato adolescente negli anni 80, la musica brasiliana non è proprio nelle note o nelle corde, come nel mio caso, purtroppo. Perché? Perché il Brasile ci arriva nelle nostre televisioni sotto forma di telenovela. Infatti lui è stato proprio un grande scrittore di musica per programmi televisivi e soap opera. Sì, le famose telenovela brasiliane, che erano di una bruttezza unica che veramente neanche in Italia siamo riusciti a arrivare a tanto. No, l'Italia in confronto sono dei cinema tipo Via forse Colmento. L'abbiamo peggiorato tramite il doppiaggio. Tramite il doppiaggio siamo riusciti, poi che siamo secondi nella bruttezza a qualcuno. No, siamo riusciti a fare il doppiaggio che è più brutto, ovviamente. Ma le telenovelas erano qualcosa di inguardabile, storie di schiave, la famosissima schiava Isaura che si innamorava del titolare della fazenda in una maniera struggente ma talmente stucchevole che riusciva a usare capitare anche a me, che di zucchero ne mangio tanto. E poi dobbiamo ricordare per esempio anche il trio famosissimo, comico, che non faceva altro che rifare queste fantastiche soap opera. Sì, in maniera molto ironica, con la Marchesini. Pedro, dov'è Pedro? Sì, queste cose che mettono in luce, per così dire, non proprio brillantissima la cultura brasiliana, per non parlare poi di certi avvenimenti, ahimè, non proprio pieni di ottimo gusto, in cui si parte col consueto trenino, no? E io quando vedo queste cose dico: mamma mia, come stanno stuprando una musica che è meravigliosa. Purtroppo bisogna accettare anche questo. Tornando a Marcos Valle e all'etichetta Far Out, però vi è una nota importanza per come è stata proiettata ai giorni nostri, perché siamo finalmente arrivati alla musica brasiliana nei giorni nostri. Questo ponte è perfetto. Ricordo fra le sue interpretazioni migliori di Os Grillo, la Batucada Surjo che abbiamo ascoltato prima, ed esce, e io vengo a conoscenza di questo artista attraverso una rivista. Non ascoltavo musica brasiliana finché Straight No Chaser, una rivista che come tutte le belle cose non esce più, una rivista inglese, dice: attenzione, nella musica brasiliana Marcos Valle è un autore da rivalutare, importantissimo. Cosa faccio? Compro questo disco rarissimo, che è la prima uscita in assoluto della Far Out Record, numero di catalogo 001, ed è intitolato Friends from Rio, gli amici che canteranno da Rio de Janeiro. Il leader è Marcos Valle, ma tantissimi altri autori e cantanti, fra cui Joyce, molto importante, seppure mi permetto di dire una minore, Tutti Moreno, il marito di Joyce, nonché percussionista, cantante e musicista, e tanti altri, fra cui Celia De Vas, bravissima tra l'altro, Wanda De Sá, insomma tantissimi autori che si definiranno gli amici da Rio. E in tono, diciamo così, contemporaneo, ci fanno ascoltare Os Grillos. Per i vostri sms, in chiusura 333-180-94-94, Marcos Valle. Latin Jazz, Latin Jazz, Latin Fusion. Siamo negli anni 70, le sonorità sono più moderne, le sonorità si stanno avvicinando a quelle contemporanee. Del resto il nostro viaggio ormai sta volgendo la via dell'atterraggio sulle splendide spiagge, sulle splendide terre del Brasile. Alle 12:13 minuti siete all'ascolto dello Special Summer intitolato Brasilica. Dicevo di Latin Jazz e Latin Fusion perché negli anni 70 vi è una rivoluzione che mette insieme sia il rock che la musica elettronica grazie al grande Miles Davis con un disco molto importante. Eh sì, Beaches Brew, cioè il brodo di cagna di Miles Davis. Tradotto letteralmente, ma ha un significato diverso per Miles, vuol dire brodo primordiale. Primordiale, sì, effettivamente. Non è carinissimo. Non è carinissimo. Ma si sa che Miles Davis non era certamente un, diciamo. Però così, insomma, vedendolo al Jazz Fusion, quindi la miscela tra funk, R&B e anche qualche parte di elettronica, qualche effetto più particolare, ci poteva anche stare, diciamo, questa interpretazione. Mentre si entra anche una cagnolina. Esatto. Beh, del resto è proprio la fusione di tanti suoni e soprattutto la novità sarà l'ambito rock in queste sonorità. Verrà chiamato anche jazz rock, il termine fusion per i puristi viene disprezzato. A me invece piace, è molto più delicato e mette più l'idea di quello che è l'insieme dei suoni. La jazz fusion in Brasile ci arriva, e ci arriva e come, non solamente con Marcos Valle o con l'altro grande produttore Yumir Deodato, che è stato importantissimo conduttore di orchestra, anche Lalo Schifrin tra l'altro possiamo citare per tutto ciò più vicino all'easy listening con la musica cinematica, argentino però scrittore della musica di Bullet, di Mission Impossible e anche di tante musiche brasiliane. Andiamo avanti, dicevo, perché siamo arrivati a Latin Fusion e come si fa a non parlare degli Esimut. Esatto, un gruppo jazz brasiliano formato negli anni 70 che si è anche autodefinito come una formazione di samba doido, sì, che sarebbe appunto una folle samba. Sì. E questo rappresenta proprio anche il loro stile e la loro idea, ma anche la dolcezza faceva parte e soprattutto l'aspetto dolce e intellettuale, come dicevo in precedenza. Faranno la sigla di una trasmissione che si chiamava Mixer, diventano importanti per quello in Italia perché nel 1984 un contenitore di informazione su Rai 2, mi ricordo ancora, ho smesso di guardare la televisione nell'86 e per quello che molte volte sono un po' disinformato sui giorni nostri, ahimè, ma per quanto riguarda il 1982 parte a cura del famoso Minoli, un giornalista che su Rai 2 conduceva Mixer, una trasmissione di informazione. La sigla era bellissima. Più tardi ho scoperto che era la famosa Jazz Carnival degli Esimut. José Beltrami è il leader di questa band e per la prima volta all'interno del contesto brasiliano si avrà l'aspetto elettronico. Noi rimaniamo a qualcosa invece più vicino alla Saudade con gli Esimut e andiamo ad ascoltare il classico, sempre dal loro disco Jazz Carnival del 1975, Tudo Que Você Podia Ser. Fra pochissimo restate in ascolto. Tudo que você devia ser. Esimut, grandissimi, nel cuor mi stanno, sono un gruppo capitanato da José Beltrami, tastierista e compositore, Latin Fusion, numeri uno, secondo me, alle 12:19 minuti. Ci avviciniamo ancora di più all'atterraggio, si inizia a vedere la pista, ma si iniziano a sentire anche note estremamente esaudenti uscite nel 2004. Esatto, ci avviciniamo alla parte più contemporanea della nostra playlist. Più di così. E appunto presentiamo i Tribalistas, che appunto è il nome con cui informalmente è conosciuto il trio musicale composto da tre famosissimi artisti, tra cui Arnaldo Antun, Carlinhos Brown e la grandissima Marisa Monte, che insieme hanno realizzato purtroppo solo un unico album, che è appunto Tribalistas, che ascolteremo appunto la loro fantastica canzone Veglia Infantia. Sì, che è diciamo diventata non un classico, perché il loro classico è quello del pop, che diciamo si sentiva ormai in ogni balera, Se sto innamorato. Esatto. È presente, che è il pezzo più brutto del disco, ovviamente. Secondo me un disco strepitoso, che casualmente diventa sempre quello più popolare. O sono troppo snob io, oppure non lo c'è so, qualcosa che non c'è va. Qualcosa che non va, non capisco. Però secondo me è stato il disco di musica brasiliana più importante degli ultimi 5-6 anni. Sì, poi probabilmente proprio perché sono tre personaggi che abitavano in posti molto lontani all'interno del Brasile, difficilmente riuscivano a incontrarsi per produrre altre cose. Esatto. Carlinhos Brown, percussionista molto importante anche per un rinnovamento all'interno del tropicalismo. Tropicalismo di cui abbiamo fatto un accenno prima con Caetano Veloso insieme a Gil, che sono stati appunto i fondatori, ma ovviamente la situazione cupa e dittatoriale è stata veramente una barriera che ha limitato. Distrutto tutto. Sì, esatto. Assolutamente. Ricordiamo Gal Costa e Maria Bethania, anche due grandissime cantanti per il movimento tropicalista. Ma adesso stiamo parlando di Tribalistas, dal quale andiamo a ascoltare Veglia Infantia. State con noi. Meu melhor amigo. grandissima voce di Marisa Monte, la poesia di Antonio Antunes e soprattutto le percussioni e la scrittura, la produzione di Carlinhos Brown fanno sì di questo Tribalistas un disco più importante uscito negli ultimi anni per la musica brasiliana. È il momento di rientrare, è il momento di tornare in Italia e noi con l'Italia finiremo. Con Rosalia de Sousa, sì, che è stata una grandissima cantante brasiliana che ha studiato tra l'altro in Italia e ha coltivato la sua maggiore musicalità proprio in Italia per poi tornare in Brasile e occuparsi appunto del Brasil Festival dove ha partecipato andando anche al Montreux Jazz Festival. Eh sì, come Alice Regina. Esatto, con Nicola Conte che produce il suo primo album da solista, Garota Moderna, che è stato pubblicato appunto nel 2003. Eh sì, e siamo vicini appunto all'arrivo, dicevo, al momento contemporaneo. E la scrittura in questo caso è estremamente attuale in quanto mette insieme anche motivi di drum and bass, la situazione ritmica sincopata, la situazione anche ballabile per così dire con motivi più vicini a noi o più vicini ai giovani o ai tempi di adesso, però noi ci siamo portati dietro una grande dose di saudade. Esatto, poi abbiamo visto che il sole è uscito anche in modo più energico, quindi vuol dire che il nostro lavoro è stato fatto, insomma. Noi vogliamo chiudere il cerchio col sole, del resto il sole è tondo, la sfera, quindi noi chiudiamo questo sole splendido, ma non lo vogliamo certo rinchiudere, anzi lo doniamo e lo auguriamo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, li ringraziamo tantissimo, siete stati veramente fantastici per la pazienza. Per la pazienza. Noi li ringraziamo per la pazienza, tanta musica brasiliana che a noi piace tanto, l'abbiamo voluta condividere, vero Elisa? Eh sì, in realtà in questo special summer come potevamo non iniziare con questa musica che riempie il cuore e ovviamente i ritmi sono tipicamente estivi. E quindi noi diciamo che è un cerchio e si deve chiudere. Abbiamo iniziato col canto di Ossania. Esatto, e quindi come potevamo chiudere se non con lo stesso canto di Ossania della grande Rosalia de Sousa. Però era interpretato da Rosalia de Sousa. E su queste note William Piana e Elisa Iacobucci vi augurano uno splendido weekend di sole e un buonissimo ascolto sulle frequenze dei 103.1 di Radio Città Fujiko. E tra poco l'informazione e il GR delle 12.30 e restate all'ascolto di tutto il palinsesto estivo. Un abbraccio, un saluto, al prossimo giovedì Elisa. Al prossimo giovedì, tu ci sarai, spero. Io ci sarò, spero anche tutta intera. Certo che ci sarai tutta intera, e che intera. E quando... che intera, anche perché io e te insieme arriva a 4 metri, quindi... chi ci sbarra la strada? Ci... noi? Esatto, ciao a tutti, Rosalia de Sousa, ciao. Da William Piana e da... Elisa Iacobucci. Esquecer.